ancora Natale. Ancora cose buone come i panettoni e Pandori Tre Marie, da condividere con chi ama le tradizioni belle. Provali ancora e ancora e scopri il tuo preferito. Tre Marie, dolci gesti gentili. È un prodotto Galbusera. Io lo do volentieri. Tu sei più malvagio di me. Comunque, andiamo al sesto posto, addirittura. Introduciamo quello che tutti gli italiani amano, ovvero il calcio. L'ho adorato. Soccer. È citato solamente per due motivi: il bene che importanza può avere, e dall'altro per permettere un buon divertimento con chi si trova al tuo fianco a giocare. Infatti in questo gioco era possibile giocare solamente uno contro l'altro, devi per forza trovarti un amico. Se volevi essere un solitario non potevi, un solitario non potevi, esatto, che sicuramente permetteva di essere meno solitari e meno ciechi. Dall'altro poteva essere comunque un limite, non tutti magari avevano l'amichetto o l'invitato. Allora guardate, questo è stato il incredibile, signore e signori, questa è la quinta stagione di Archeologia Videoludica. www.archeologiavideoludica.it è il nostro sito di riferimento. Vi ricordate che il net è andato a puttane, quindi ve lo diciamo subito. Non cliccate che arricchite il maledetto. Archeologia Videoludica la trovate anche su Facebook e Google Plus come pagina, come canale YouTube chiaramente, e lo trovate anche su iTunes, per dove potete abbonarvi al nostro fantastico podcast audio. Abbiamo anche un Twitter, giusto Marco? Sì, no, è at video ludica, no, perché siamo in Italia, giusto, chiocciola, mi piace di più chiocciola video ludica è il nostro Twitter. Se voi andate su Twitter e digitate chiocciola video ludica, vi appariranno tutte le nostre twittate. Cliccate su Twitter e andate su chiocciola video ludica per vedere tutte le nostre cosa triste che ti stai incartando. Comunque vabbè, Marco Gualdi, il distruggitore, Twitter video ludica. Ma non siamo soli, perché per affrontare questo primo percorso della quinta stagione, ragazzi, stiamo iniziando la quinta fantastica stagione, c'è anche con noi Giuseppe Sasu. Buon salve a tutti, ragazzi. Mitico, qui oggi c'è un po' di ciccia, quindi cerchiamo di andare veloci. Allora, prima di entrare nel vivo, diamo alcune notiziole molto molto veloci. Intanto il canale di Gianluca Santilio potrebbe, diciamo, essere insignito di canale ufficiale di Archeologia Videoludica, visto e considerato che lui comunque come canale sta facendo praticamente il percorso che fa Archeologia Videoludica con i suoi bellissimi video e i suoi racconti storici. Vi ricordo ancora l'iniziativa, così come abbiamo fatto su Dietrologia Videoludica, l'iniziativa di Videoludica a Berlino, che è questo nostro grande viaggio che esperimento dentro noi stessi e dentro i tedeschi, esatto, okay. Dentro i tedeschi, dove andiamo a Berlino a vedere il museo del videogioco di Berlino, esatto. E questa, insomma, faremo queste interviste, questo mini documentario, e poi in realtà sarà il primo lavoro di un grosso documentario che durerà praticamente come lavorazione circa un anno e mezzo, dove ovviamente raccoglieremo le informazioni e praticamente racconteremo l'importanza della preservazione dell'informatica storica. Se volete supportare questo progetto, che come abbiamo detto è non soltanto Berlino ma poi avrà tutta una serie di tappe, andate sul sito di Italian Podcast Network, fate una piccola donazione, perché le attrezzature che noi utilizziamo e anche i professionisti che ovviamente supportano questa lavorazione non so a gratis, costano soldini, bravissimo. Poi prima di iniziare, diciamo che visto e considerato che è iniziata questa nuova stagione, pensate, la quinta stagione anche per Italian Podcast Network, non solo è iniziata la trasmissione come fuori tempi, quindi l'attualità roba già, ma ci sono anche dei programmi nuovi, ma soprattutto vi suggerisco di andarvi a ascoltare il veliero di Capitan Aldo, perché questo ragazzo di 20 anni veramente è uno che un po' ce la sa, e poi è sempre bello vedere, insomma, i ragazzi giovani invece di andarsi a drogare a fare stronzate fanno cose creative. Okay, insomma, perfetto. Abbiamo il famoso podcast sul porno? No, ancora no, non è ancora arrivato. Ce l'abbiamo, ragazzi, in realtà da preparato da tempo, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di farlo. Esatto. E poi lo faremo. Esatto. E adesso entriamo nel vivo della trasmissione con la classica intro di Luigi Marrone. Fortunatamente non si adatta alla nostra linea di prodotti, ma grazie per aver presentato il vostro gioco. Estate 1982. Studente d'architettura, Università di Washington. Douglas Smith, consulente accademico al centro computer, imbottito di Pascal, Fortran e Assembly, un puzzle platform dove un tizio deve sgraffinare oro, scavando buche da farci cadere nemici dentro. Programmato per ammazzare la noia d'estate. Un gioco che gira gratuitamente, diventa un cult. Studenti disegnano livelli, espongono idee, la piattaforma, un VAX 11780. Una sera, Douglas porta la nipote di 8 anni. Perché non lo metti su di un floppy, così posso giocarlo a casa sul mio Apple 2? 3 giorni, una versione in bianco e nero, nessun joystick, medium res. La presentazione a Broderbund. Sfortunatamente non si adatta alla nostra linea di prodotti, ma grazie per aver presentato il vostro gioco. Apportare migliorie, riprovare, poco prima di Natale, diverse proposte, scegliere Broderbund. Il copyright di Loadrunner non riguarda il personaggio, ma le meccaniche di gioco, e le meccaniche di gioco sono il cuore e l'anima di Loadrunner. 1999, 3 milioni di copie vendute. Da ieri a oggi, Apple 2, VIC-20, Commodore 64, ZX Spectrum, Atari 8-bit, SG-1000, BBC Micro, Amstrad CPC, NES, Super Nintendo, Atari Lynx, Windows, iOS, Virtual Console, Xbox Live, PlayStation Network. Douglas Smith affermava che sua figlia amava Tomb Raider, ma che lui avesse problemi a gestire la telecamera. Muore nel 2014, a 53 anni. Sfortunatamente, non si adatta alla nostra linea di prodotti, ma grazie per aver presentato il vostro gioco. È sempre suggestiva l'introduzione di Luigi Marrone, che finalmente ci introduce piano piano, ci porta mano nella mano in quello che è il tema di questo episodio, che c'ha anche un titolo ed è 5X01, che è il titolo. Oro, buche e robot. Mamma mia, Marco, chi è che ha fatto sto titolo? È un titolo veramente affascinante. È quindi... di Bertoni? È no. di Bertoni. Però strano, devo dire, tutto sommato non è poteva fare de peggio. Poteva fare molto de peggio. Però, sì. In realtà, allora, possiamo consolarci. Di che parliamo, Peppe? Prima, insomma, così introduciamo proprio l'argomento e poi dopo entriamo nel vivo. Poi ne abbiamo approfittato perché c'è stato anche un evento recentemente, insomma, che un tragico evento. Un tragico evento, dire. Che noi quando c'è quel tragico evento diciamo facciamoci la puntata. Ci mangiamo sopra, come giornalisti, mangiamoci sopra. No, facciamoci la puntata, no, strappacollo. Perché il 12 settembre è venuto a mancare Douglas Smith, che è appunto ricordato da tutti come il fondatore di uno dei giochi più importanti degli anni 80, che è Loadrunner. Benissimo, e poi dopo magari con Giuseppe chiaramente racconteremo Loadrunner come è, come non è, anche dal punto di vista del gameplay, e cercheremo anche di capire perché poi sto gioco è per esempio, io a distanza di anni ancora me lo chiedo, ma perché sto ma gioco lo ricordo, ancora me lo ricordo? Io me lo ricordavo me lo ricordo anche bene, insomma. Io me lo ricordavo molto, cioè per me ha un valore affettivo un po' come tutti i giochi che, per cui insomma partecipo ad archeologia, perché questo, diciamo, fu uno dei primi giochi che giocai sul PC di mio padre, a volte anche di nascosto. Ah. Perché c'aveva la versione quella per PC con grafica CGA a quattro colori, e quindi insomma era un giochino che mi ha sempre affascinato. Poi c'aveva sta cosa particolare che col tempo, no? I vecchi giochi su un PC che andavano via aumentando di potenza e di clock, no? Giravano poi in maniera assurda come velocità, se vi ricordate. Sì. Non so se avete mai provato a lanciare, quindi poi diventava praticamente alla fine ingiocabile col passare degli anni. E quindi insomma mi è rimasto qua questo ricordo così nostalgico. No, bene, poi cerchiamo, appunto, ecco, come ha fatto giustamente Giuseppe adesso, magari riferimento un po' alla nostra memoria, un po' anche a cercare di capire veramente anche concettualmente per quale ragione veramente questo gioco è rimasto così fisso, insomma, nella storia. E a questo punto non possiamo fare altro che entrare nel nostro fantastico Barnett College. Tra jingle e jingoletti, chiaramente non è che noi abbiamo finito qua, perché come abbiamo detto, se c'è un gioco c'è anche un autore, Marco. Di solito sì, a meno che non sia nel generale, ma nello specifico Douglas Smith. E come ha detto prima Giuseppe, appunto, proprio recentemente, insomma, è scomparso. Diciamo che è venuto, per non dire che è morto, diciamo, è scomparso. E allora Roberto Bertoni ci introduce un po' il personaggio, la carriera, l'evoluzione di questo di questa figura emblematica all'interno di quella che è la storia del videogioco. Ricordiamo che Bertoni è quello che crea i titoli. No, Bertoni di solito gli cassiamo tutti i titoli, però questo stavolta gli è venuto bene, stranamente. Sì. Prima me l'ha detto un altro e mi ha fatto fare una cattiva pubblicità. Faccio ridere, qual era? L'ho scritto da un'altra parte. Vabbè, dopo ascoltiamo la scheda di Bertoni e poi te lo dico. Benvenuti amici di Archeologia Videoludica, e un veloce saluto mentre vi introduco al personaggio a cui dedicherò un piccolo spazio biografico in questa puntata. Non sto certo parlando di Ron Gilbert, di Tim Schafer o di Sid Meier, giusto per citare alcuni di quei nomi che probabilmente risuonano un po' nella vostra mente, ma sebbene non conosciuto dal grande pubblico, credo che il nome di Douglas E. Smith abbia scolpito una parte importante della storia del nostro passatempo. Tutto questo grazie al nostro Loadrunner, di cui parleremo tra poco. Prima però di passare la parola ai miei esimi e dottorandi colleghi, vi lascio qualche breve nota biografica, così da poter inquadrare un po' il contesto e la mente dietro questo piccolo capolavoro. Nato nel 1960, di Douglas si sa ben poco, e questo fino al momento in cui si iscrive all'Università di Washington per frequentare architettura, a dire il vero con risultati, diciamo, un po' altalenanti, soprattutto in matematica. Qui, come molti studenti dell'epoca, svolge un lavoro part-time all'interno del campus, e questo per potersi pagare la retta e quindi gli studi. Ma nella calda estate dell'82 si trova senza studenti, colleghi appunto, da aiutare, in quanto il suo compito era un po' quello di supportare tutti gli altri studenti l'utilizzo di quei computer per stampare i propri lavori, per poterli impaginare, essendo che all'epoca, diciamo, che gli apparecchi informatici erano visti un po' come il male assoluto. Diciamo appunto che in quest'estate si trova un po' disoccupato e quindi decide di sfruttare le proprie doti con un amico e si improvvisa game designer. Il successo fu subito immediato, e su questa parte magari vi lascio alla successiva trattazione. Ma pensate che già nel 83 il nostro firma un contratto di 10 anni con Brotherboom, con la quale si trova inserita in una serie di press tour che lo porteranno un po' a girare il mondo. Questo perché, giusto per darvi anche qui una piccola idea, ai tempi circa l'80% delle vendite veniva realizzato in Giappone, cosa che comportava a gioco forza un lavoro pubblicitario che potesse avere un ampio respiro in tutto il globo. In seguito collaborerà poi anche come supervisore pieno diretto anche i seguiti del suo piccolo capolavoro, senza però onestamente ottenere lo stesso successo, o meglio, la stessa fama che potrebbe derivare da questo piccolo pietramiliare. E nella sua carriera, durante gli anni 90, fu anche produttore esecutivo per la versione inglese di un altro titolo interessante, Secret of Mana, oltre che aver contribuito alla localizzazione di Chrono Trigger e come produttore esecutivo di Secret of Evermore. Pensate che però anche altri lavori vedono impegnato come artista e diciamo lavori che probabilmente, se ci pensate a mente fredda, difficilmente potete associare al nostro amico. Stiamo parlando ad esempio di Defender of the Crown, di cui abbiamo parlato recentemente, Micro Machine 64 Turbo o Lemmings 2. Tuttavia, nessuno di questi lavori lo vede come protagonista o come personaggio di riferimento. Il 13 settembre del 2014 si spegne, lasciando però un indelebile ricordo nella mente dei giocatori. Ricordo che li riporterà per sempre agli albori della storia videoludica. Questo è tutto e mi sembra doveroso salutarvi con grazie di tutto, Doug. E grazie anche a Roberto, quindi questa è la seconda parte insomma della trasmissione, anzi la parte fondamentale. Giuseppe, io direi che a questo punto possiamo iniziare. Indossa anche tu il cappello da professor Jones, però senza sì, è il vestito quello scuro da notaio, pure così faccio notare tutte le varie cose che aveva detto pure Roberto. Innanzitutto volevo fare appunto una piccola precisazione, un preambolo. In realtà appunto sì, noi attribuiamo giustamente la paternità dell'idea appunto del gioco di Loadrunner a Douglas Smith, però in realtà comunque il vero e proprio precursore di questo gioco, del prototipo di questo gioco, lo dobbiamo a un certo James Bratzanos, che col Commodore PET, non so se vi ricordate questa fantastica macchina, io sai che sono innamoratissimo, sì. Quindi aveva insomma realizzato un primo prototipo in BASIC che chiamò Suicide. Già il nome, bello, fantastico. Lo scopo del gioco era diciamo sempre quello di Loadrunner, ossia un platform con scale omini che si muovevano, dove però gli omini non erano diciamo quelli che vediamo nel gioco vero e proprio di Loadrunner, ma usava ovviamente scritto in BASIC grafica ASCII, quindi praticamente l'eroe era semplicemente una et, no? Quella che usiamo anche nella mail, a ghioccioletta, esatto. La cosa diciamo interessante di questo gioco è che questa persona, che poi si incontrerà, così faccio un po' di spoiler in seguito, con Douglas, non era un giocatore, cioè non gliene fregava assolutamente niente, e tuttora dichiara diciamo di non essere interessato al videogioco in sé. Però gli piaceva la sfida appunto di creare un algoritmo appunto che gestisse un po' sia il ciclo di tutto il gioco che l'intelligenza dei personaggi, perché ricordiamo in questo gioco Loadrunner e in tutti i suoi precursori e successori fondamentalmente devi muoverti all'interno di un quadro con piattaforme, scale scappando ai funi, anche scappando da alcuni diciamo altri nemici, dei pupini che ti inseguono, e al contempo devi riuscire a recuperare tutte i filoni d'oro in alcune versioni, perché sembravano tipo una specie di Monterozzo, delle valigette in altre e una volta che le prendi tutte insomma spunta una scala che dà l'accesso al livello successivo. Questo insomma è così, abbiamo anche inquadrato un po' di che cosa stiamo parlando. E lui ovviamente per fare questo in BASIC fece una specie di mega ciclo, no? Come diciamo gli algoritmi, no? Ciclici. E all'interno di questo c'erano anche altri algoritmi che ovviamente dovevano gestire via via, vedere il movimento del tuo personaggio e in base al movimento del nostro avatar dovevamo ovviamente gestire quello degli altri nemici, no? Perché l'intelligenza artificiale dei nemici, che era molto raffinata, andava via via in base alla tua posizione, alla distanza tra il nemico e il personaggio principale, andava a calcolare ovviamente il percorso più breve. Quindi insomma era diciamo un tocco di genialità, ma la cosa bella è che riuscire insomma a capire tutto questo fu una sfida, ma lui riuscì a tirare fuori veramente un signor algoritmo. Stiamo parlando di un programma scritto alla fine in BASIC, che insomma ricordiamo è sempre un linguaggio poco evoluto rispetto a quelli di oggi, no? Soprattutto lento, no? Perché esatto, deve essere poi interpretato anche. sì. Poi lui, diciamo, stiamo parlando proprio nel 1980. Poi l'anno successivo lui e James andò all'università di Washington e diciamo andò ovviamente a imparare e a seguire un corso di Fortran, quindi stiamo passando a un altro linguaggio, e quindi decise di riscrivere praticamente questo gioco per il VAX, che era un mainframe di quei tempi, e là conobbe appunto Douglas Smith. Il gioco che lo ribattezzò con un altro nome, che ha già un'altra fantastica storia dietro, che si chiama Kong. Detto ora così, Kong, che cosa vi ricorda? Donkey Kong, diciamo, era un ammiccamento al gioco di Nintendo, che ovviamente con cui se notate, diciamo, delle similarità ce l'ha, perché ha comunque la struttura monolitica di un cioè il quadro è tutto quello che vedi nello schermo, non c'è scrolling né niente, no? E c'è un personaggio che comunque solitamente parte sempre dal basso e deve salire le scale ed evitare, insomma, altri ostacoli. Poi ovviamente lui decide anche di riscrivere. Il bello è che questa nuova versione di Kong era scritta in Fortran e utilizzava anche delle subroutine aggiunte in Pascal, quindi insomma cominciava il codice a diventare sempre più complesso, finché poi non decisero, siccome anche diciamo per una questione pratica, perché se volevano darla ad altri, il problema è che essendo un mainframe il VAX non aveva, diciamo, periferiche e supporti su cui esportarlo, no? Allora decide di riscriverlo in un weekend. Signori, sta riscrivendo una cosa in tre giorni. Capito? Beh, come? Per Black Hole 2, ovviamente. E da qui, praticamente, con l'aiuto sempre del buon Douglas, nasce il vero e proprio ultimo prototipo di Loadrunner dal titolo Miner. Miner, poi ricordiamo che fu anche quello che in seguito fu diciamo mandato alla Broderbund per essere ovviamente pubblicato. Solo che ovviamente nel frattempo, appunto, e qui abbandoniamo definitivamente James per passare e dedicarci d'ora in poi all'effettivo fondatore di Loadrunner, Doug, perché praticamente James decise di tirarsene fuori fondamentalmente, però non prima che ovviamente Doug, che invece ci credeva in questo progetto, praticamente gli pagò, Doug pagò a James $1,500 di diritti per il lavoro. 500 praticamente, 1500 dollari allora erano parecchi soldi, ovviamente. E la cosa bella è che ovviamente poi questa prima versione non è che piacque proprio subito all'inizio a Broderbund, no? Perché loro comunque che cos'è che gli chiesero, ho detto sì, affinché voi lo pubblichiamo dovete insomma modificarci un pochetto, metterci in mano, non possiamo pubblicare Miner così come ce l'avete presentato. E allora decisero di sì, fondamentalmente non possiamo, che ci fa cagare, era questa, ma soprattutto vogliamo che visto appunto l'idea di avere un gioco così con un unico quadro, no, abbastanza spartano, dice sai che ci fai diciamo, al momento di segnare il contratto c'è scritto nero su bianco, ci devi consegnare con questo programma deve avere 150 livelli ovviamente in pochissimo tempo, che è la cosa più difficile, elaborare 150 livelli, perché li devi progettare, devono sì. essere funzionali, devono essere belli da giocare. Infatti in realtà comunque c'è da dire che la struttura di come era fatto Loadrunner si prestava molto, l'ha sempre detto Doug anche nelle interviste, che praticamente lui aveva fatto un algoritmo tale, aveva perfezionato l'algoritmo di James in maniera tale, comunque dando tutte le varie impostazioni iniziali, settaggi iniziali, quindi nella matrice riempendo dove sono le scale, dove sono le piattaforme, dove sono i personaggi, poi cambiavano quelli ma la logica dietro dell'algoritmo si comportava sempre nella stessa maniera, no? quindi alla fine appunto era questione di automatismo, di generare livelli su livelli, solo che ovviamente avendo il poco tempo che cosa fece? Pensò bene di chiedere aiuto a tutti gli amici e vicini di casa, che gli fornirono in pochissimo tempo su vari dischi, su vari floppy, centinaia di livelli, e lui praticamente poi rimase dei giorni proprio a testarli e scremare, insomma, e selezionare i migliori 150. Io stavo vedendo, scusa ti interrompo, la versione del Big 20, sì. Ovviamente poi mi ha riacceso chiaramente i neuroni, perché sicuramente l'ho trovato in qualche program, che erano quelle cassette, quelle del Big 20 da una parte e ZX Spectrum 16 dall'altra. Probabilmente si chiamava Corri e sali le scale, chissà come si chiama. Scappa o muori. Scappa o muori, chi lo sa, insomma. Adesso stiamo vedendo la versione del Fujitsu FM7, mai sentito sto... Però esisteva. Evidentemente sì, probabilmente era un computer giapponese, chissà. Sì, perché poi a questo ci arriviamo tra pochissimo, perché poi ci fu anche il successo fu tale che venne comunque, attirò l'attenzione dei giapponesi, in particolare di una software house dell'epoca che era la IREM. Però aspetta, prima di arrivare a questo, per non perdere un po' il filo del discorso, fu anche appunto tale che la cosa particolare era anche di questo gioco, che quando fu pubblicato con questi 150 livelli, la Brotherboom, perché ovviamente questi livelli erano stati generati con un tool che aveva creato pure ad hoc Douglas, e da qui ricordiamo la particolarità di questo gioco, per cui viene ricordato che fu uno dei primissimi giochi a includere un editor di livelli. Però questa cosa, la cosa bella è che non fu voluta dal programmatore, cioè quelli della Brotherboom hanno detto: sai che c'è, ma questa cosa, comunque questa funzionalità lasciamogliela pure, che, cioè, non nascondiamo, non togliamo l'editor di livelli, lasciamoglielo pure nel pacchetto completo. Infatti c'era, ce l'avevo anch'io nella mia versione. Sì. Poi ne parleremo. Ricordiamo che per l'epoca, tanto per fare una storia, in quegli anni erano pochissimi giochi che prevedevano un editor di livelli, tanto per citarne qualcuno così di quegli anni. Ricordiamo, non so se vi ricordate, il Pinball Construction Set, quello anche per Commodore 64, per Apple 2, per Atari 800, che ti permetteva di creare flipper, non so se lo ricordate. Sì. Poi c'era anche il Construction Kit di Boulder Dash, quel gioco ti ricordi dello scavatore, per Apple 2, per Commodore 64 e Spectrum. Sul versante Nintendo l'anno successivo ci sarà l'editor del gioco Exit Bike, non so se lo ricordate, quello, uno dei primi giochi per NES di motocross. E insomma, quindi non erano proprio tantissimi. Però dobbiamo considerare questa moda, diciamo, anche Loadrunner ha aperto, insomma, alla moda dei giochi con, dove diciamo la cosa bella è anche, oltre che giocare, gran metà del gioco è crearsi i propri fantastici livelli impossibili. Sì, ancora oggi lo vediamo, che so, con Little Big Planet, con Minecraft, tanto per citare i più famosi, no? Quindi Loadrunner ha aperto la strada anche a questi. Ma torniamo un pochettino al gioco, visto che la gente ovviamente ebbe un successo tale e la gente si intrippò con quest'idea anche di creare i propri livelli. L'anno successivo la Brotherbund realizzò un seguito che veniva chiamato Championship Loadrunner, che mi pare che è anche nel video che vi ho linkato. E in pratica questo qua era una compilation dei migliori livelli più difficili, esatto, progettati dai giocatori stessi. Ah, bello, pure una bella idea marchettara, ma bella. Sì. Poi appunto, come avevamo detto anche anticipato prima, il successo di Loadrunner fu tale che attirò appunto le intenzioni anche dei giapponesi. In particolare arrivò nelle scrivanie dell'executive director di IREM, Scott Tsumura, che insomma vide che il gioco aveva del potenziale, soprattutto attirava anche i giocatori, cioè aveva una certa presa anche sui giocatori con gli occhi a mandorla, e quindi decise anche di realizzare delle versioni appunto per l'MSX, poi anche per addirittura per la sala giochi. Cioè, si chiamava Redurener. Sì, fu comunque cioè, questo gioco è veramente un trip, sì, cioè, penso che sia stato il gioco più portato della storia. Sì, Lodrunner fu diciamo, anche uno dei pochi giochi che appunto nacque come gioco per computer e poi solo dopo diventò, cioè fece laddove, se vi ricordate, in quel periodo accadeva l'esatto opposto, no, di un grande smash hit della sala giochi che veniva realizzata la sua conversione per le piattaforme domestiche. Questo era l'esatto opposto, nasce come gioco casalingo e poi diventa un gioco da bar, no? Quindi c'è questa cosa molto particolare. E, poi diciamo, come altre cose, appunto il gioco aveva questa appunto particolarità che l'algoritmo era comunque sì prevedibile, però lasciava margine comunque anche a dei ripensamenti, cioè c'erano dei casi che tu ad occhio non te ne accorgevi, in cui effettivamente i nemici non a un certo punto si fermavano, magari in alcuni si bloccavano. Facevano su e giù perché non sapevano qual era la strada più buona. No, non è questa perché no. in realtà, non è questa nel senso che a prima vista sembra questo, in realtà dietro la spiegazione che ha detto, che l'ha data pure Douglas, è che l'algoritmo verificava che oltre che appunto non è che gli faceva prendere per forza il percorso minimo, se il percorso minimo era tale che comunque non permetteva entro X passi di arrivare al nemico, era tanto valeva restare fermi. Ah, insomma, cioè, era diciamo a questi livelli di, era così evoluto, ecco. Oppure non so se hai visto in alcuni gameplay mentre, o situazioni, se vi sono capitate quando ci avete giocato, che tipo sembrava che i nemici tornassero indietro, no? Come se facessero tipo la strada più grande per venirti a prendere. Sì, sì. Anziché magari, che so, venire subito direttamente sulla scala, esatto, attraverso una fune, esatto. E comunque gran parte effettivamente dell'abilità di questo gioco non era solo appunto ricordarsi più o meno qual era la struttura della mappa e l'ordine con cui andare a prendere le cose, anche perché ricordiamo gli oggettini, valigette o montarozzi di polvere d'oro che tu andavi a recuperare, non è che restavano fermi là, c'è il fatto che se ci passava su quella casella un nemico, questo nemico se lo prendeva, poteva prenderlo, non era detto, poteva prenderlo. Solitamente però lo prendeva, e quando lo prendeva l'unica maniera poi era quella di farlo fuori. E qua rientriamo nell'altra meccanica del gioco, ossia quella di siccome l'unico mezzo di difesa che aveva questo personaggio era utilizzare appunto la sua pistola, la fantastica pistola laser, ma non per sparare direttamente a questi perché nemici, perché era un gioco pacifista, esatto. Era una sparabuchi, esatto. Una pistola esatto. Sparabuchi. Esatto, lui sparava nella casella immediatamente successiva in basso a dove era rivolto, per terra, quindi dovevi puoi sperare ovviamente che il nemico ci cadesse dentro. Quando ci cadeva dentro perdeva la valigetta che o sacco di soldi che insomma trasportava, e anche dopo un po' ovviamente il nemico non è che era stupido, poteva anche risalire, cioè, sì, se cosa gli che non potevi fare te però. Esatto, tu se perché ovviamente c'erano anche le situazioni in cui tu se avevi sbagliato i calcoli ci potevi anche finire dentro, e in quel caso l'unica maniera era aspettare o che ci fosse un nemico che veniva proprio, cadeva nel buco accanto e ti prendeva, oppure col tempo questi mattoni andavano, questi buchi andavano richiudendosi fondamentalmente. Li rigeneravano, ma c'era esatto. Anche, se non sbaglio, c'era anche sì. La possibilità di rimanere intrappolati in parti della mappa dove non c'era possibilità di uscire, magari una casella vuota, ci venivi dentro sì. E potevi scavare e rimanevi lì fermo, quindi dovevi sì. Se non sbaglio c'erano dei comandi però che permettevano il suicidio, c'erano diversi comandi, però adesso questo c'ha una vaga memoria sulla data, forse per questo che la prima versione si chiamava suicidio. può darsi. Cioè, se tu rimanevi bloccato in alcune caselle dove non era possibile sparare, perché non si rigenerava il buco dove c'era proprio il buco nella mappa. Che poi l'unico modo per uscire era o aspettare che scadesse il tempo, se non sbaglio, oppure proprio c'era un... Ma non tutti, però questo era già piovuto, perché non tutti i loadrunner avevano tutte le versioni, erano limitati. Comunque c'era tempo. Una specie di console che era possibile attivare per applicare diverse funzionalità, tra cui il suicidio, appunto. Sì. Oltretutto, questo, diciamo, siccome sin dagli albori questo gioco non era tanto inteso come un gioco di piattaforma, ma più come un gioco di fatto di strategia, no? Perché la strategia è capire dove andare a prendere, cioè quali andare a prendere prima come valigette, e soprattutto via via modificare in corso la strategia a seconda dei movimenti dei nemici, no? E magari anche sapere convogliare i nemici in una zona, in modo che loro magari poi cominciano a perdere tempo per come si muovono, mentre tu sei sempre più più, diciamo, mantieni sempre solo, più distanza. A volte bisognava anche sfruttare i nemici per farli cadere in apposita posizione, utilizzarli come passerella. Esatto, perché una volta che tu comunque li facevi cadere dentro, comunque ci potevi andare a camminare di sopra, no? Oltretutto i nemici, qualora invece riuscivi a cogliere il momento giusto, cioè non lo facevi cadere subito dopo che hai fatto il buco, ma quando magari già il buco stava cominciando a richiudersi, il nemico poteva anche morire schiacciato dal buco, però non moriva definitivamente, perché se vi ricordate i nemici si rigenerava, esatto, cioè risponde i nemici dall'alto, se vi ricordate in particolare. Comunque ritorno al discorso del che era inteso come gioco strategico, tant'è che infatti, se vi ricordate, il gioco prima che ti facesse cioè all'inizio del livello non è che partiva subito così a razzo, ma c'era, diciamo, una specie di pausa tattica proprio prima che il gioco cominciasse, ma quando ti aveva già mostrato il livello, e finché tu non facevi la prima mossa il gioco non partiva, quindi diciamo c'era questo aspetto che sin dall'inizio te lo presentava. Devi studiare, cosa devo fare, lo schema di movimento, certo. Mamma mia, questo quanto è brutto. Lynx, forse per questo che fa sì pure per il ho detto, è stato fatto per, pensate che l'ultima iterazione, senza spoilerare troppo, è quella per iOS, Android, per piattaforme iOS, Android e Windows Phone, con Load Runner Classic. È inguardabile, mamma mia. No, ma guarda, ne hanno fatte veramente, cioè hanno fatto appunto oltre alle versioni anche da bar, hanno fatto delle versioni pure per console portatili, quindi ci abbiamo quelle pure per il Game Boy, per il Game Boy Advance, che poi alcune di queste ci avevano, soprattutto quella per il Game Boy normale, il discorso che essendo lo schermo piccolo tu vedevi solo una porzione dello schermo, quindi era più seccante vedere, diciamo, programmare tutto il percorso senza sapere come si muovono tutte le altre. Oltretutto, altra curiosità, c'è un load runner realizzato per il mercato giapponese, quello per PC Engine, non so se l'avete visto. Ma dove questa, la versione Wonderswan, sì, che... sì. Dove i nemici appunto cambiano, perché ovviamente non è il primo caso di giochi dove, diciamo, ci sono delle modifiche anche grafiche, dei cambiamenti grafici per un audience diversa, e in questo caso, visto che era fatto dall'Hudson Soft, che un soft che ricordiamo sono i creatori di Bomberman, avevano loro al posto dei nemici, questi qua classici, questi che sono robottini, ricordiamoci, i Bungling Guards, esatto, i Bungling, erano invece i personaggi, quelli di i mostri e i personaggi di Bomberman. Stavo guardando questa versione Wonderswan, sì, che è praticamente già un altro gioco, nel senso, sì. Ma graficamente, ma si vede proprio, è completamente ricostruito il gioco. Quindi. Ma alcune di queste versioni, ora non mi... Poi sai che i giapponesi, la cosa non è giapponese, non è... Allora sento un po' come americani anche, volendo. Allora, il gioco ha avuto, diciamo, anche alcuni enhancement, alcune migliorie, tra virgolette, come appunto la già citata... il fatto che dovevi completare il gioco entro un determinato lasso di tempo, oppure ce n'erano altre versioni dove in pratica c'erano tipo anche delle chiavi e delle porte che dovevi comunque andare ad aprire, quindi non tutto il livello all'inizio era attraversabile, quindi insomma il gioco si è sempre cercato di, tra virgolette, di migliorarsi col tempo. E poi, come altre cose, al punto che appunto i miglioramenti furono tali che nelle sue ultime iterazioni venne anche realizzato una versione in 3D che ricordiamo l'infame versione 3D per Nintendo 64, che aveva 156 livelli di cui 20 segreti e che utilizzava delle meccaniche 3D che però cominciava ad essere già più complesso, oppure un Lode Runner 2 uscito nel 98 per Windows e Mac che non era vero e proprio 3D ma era isometrico. Poi ci fu addirittura una versione sempre per ritornando al discorso delle versioni Kawaii, no, quelle carucce, ce ne fu una versione per Super Famicom, cioè Super Nintendo che conosciamo noi, che è distribuito solo per il mercato giapponese, della Atelier Software. Questa versione è uscita nel 1999, che praticamente aveva tipo al posto del personaggio una specie di animale antropomorfo stile cartoon, ed era tipo ambientato tipo nei boschi. Le ultime iterazioni che noi ricordiamo sono appunto, oltre a quella per iOS, ce ne fu anche una che uscì nel 2009 per posso dire che la versione Amiga forse è una delle più brutte. Beh, quella Lynx abbatte pure, no, però sì. Cioè, sta a parlare dell'Amiga, non sta a parlare del Lynx, cioè, nel senso che non sfrutta proprio niente Ma forse è una, diciamo, di quelle dei porting peggiori, se per questo. Questo che, volevo dire, sì. Perché comunque già uno che invece fu, diciamo, abbastanza apprezzato, proprio a parte appunto quello per PC, che ricorderemo tutti, perché insomma chiunque aveva questo floppy con questo programma scritto Lode.exe, non so se ve lo ricordate. Sì. Poi c'era ovviamente quella per Commodore 64, perché con nomi diversi, quello ovviamente per Apple II, che ovviamente usava solo la grafica in bianco e nero. E poi ecco una delle ultime invece iterazioni che non è che sia sto granché, sì, però diciamo è già più pesantemente, quella per il NES giapponese è già più pesantemente ritoccata, se hai visto. Sì esteticamente più lavorata, cioè esteticamente, certo. Diciamo sì, tu dici che sembra quasi già un altro gioco, fondamentalmente diciamo che ricorda la versione dello Swander, Sì. Nel senso sembra abbastanza preso da là, insomma, però è molto simile, anche come si cade nel vuoto sbattendo le braccia mondiali. L'ultima iterazione che diciamo ricordiamo tuttora disponibile, pure appunto oltre a quella per smartphone e tablet, è il Lode Runner, uscito nel 2009 su Xbox Live Arcade per 360, che questa diciamo è una delle versioni di cui andava più fiero lo stesso Douglas, perché diceva che insomma ricreava il feeling originale. Questo qua addirittura oltre a raggiungere a introdurre anche l'editor di livelli, che perché l'editor di livelli comunque non era presente in tutte le versioni del gioco, tutti i porting del gioco, questo qua aveva era sempre bidimensionale, anche se aveva una grafica, un effetto simile 3D, aveva questo editor di livelli, utilizzava anche delle modalità cooperative, cioè dove si poteva giocare quindi in più giocatori anche online. Quindi pensa un po' che traguardo, insomma. Beh, possiamo dire in tutta sincerità, no, che penso che questo sia un gioco che abbia attraversato veramente 35 anni di storia del videogioco, ma letteralmente, non solo dal punto di vista strettamente cronologico o storico, perché se andate ogni console, ogni evoluzione, ogni generazione ci ha avuto la sua versione, è una cosa incredibile. Cioè, penso sia un caso, non dico unico, però insomma veramente. Pensa che su PlayStation 4 c'è lo Drunk. Lo stanno a fare. Con l'Oculus Rift da giocare. Anzi, col Morpheus, come si chiama? Bello. Anche comunque quello del Game Boy Advance, cioè veramente. Sì, però già quella per Game Boy Advance rispetto a quella Game Boy Classic aveva la cosa bella che potevi usare con la pressione di un tasto, praticamente faceva una specie di ingrandimento, quindi o facevi lo zoom di una porzione dell'area in cui trovavi, o con un tasto diciamo faceva lo zoom out e quindi vedevi tutto lo schermo, cioè tutto l'area del gioco. Anche se poi hanno 4 pixel in fase. Però dico una cosa, sì. Quindi giusto come riflessione, sì, sì. che nel video che linkeremo nelle note dell'episodio, che dura appunto una cinquantina di minuti, dove ci sono praticamente tutte le versioni, o perlomeno penso, le, penso maggiori. Le maggiori, ma penso che siano un 90%. 90%. La prima versione che vedete, ma soprattutto poi quella Windows, non so per quale ragione, appena ho iniziato a vederlo mi è venuto in mente il fatto che questo gioco in qualche maniera ha dato spunto ai Lemmings, non so perché. Cioè, ci trovo qualche spunto a tante cose. Ci trovo tante associazioni, certo, è chiaro, va bene. Però ha preso so, spunto anche da tante cose. Ci trovo alcune associazioni, analogie, proprio secondo me viste al contrario, chiaramente. Vabbè, è un discorso un po' complesso che mi si è formato nel cervello, non so spiegarlo. Si però Ictus. Si chiama, sì, si chiama stranezza. No, no, un, diciamo che la seppur lontana la le similarità ci sono, perché appunto oltre al fatto di avere dei pupazzetti piccoli che te lo ricordano come movenze, c'è pure il fatto che di fatto anche Lemmings è, a maggior ragione, un gioco di strategia strategico, esatto, sì. Anche questo c'aveva appunto l'elemento strategico, era fondamentale, perché appunto Loadrunner, ripetiamolo, è più un puzzle game che un platform, no? Sì, infatti un platform in senso, diciamo, per poi quello che è diventato il platform game, sì. non è, cioè nel senso oggettivamente non mi sembra di poterlo definire tale, però insomma va bene. Che c'è, ci sono altri elementi della parte storica? No, beh, a parte il discorso che aveva detto anche prima Marco dei Bungling, che praticamente questi tizi che appunto in alcune nella versione classica dovrebbero essere dei robot, no? Sì. Appartengono a una razza particolare che si chiama appunto l'impero dei Bungling, ed è, diciamo, sono dei nemici che in realtà appaiono anche in altri giochi, sempre della Brandenburg. Quindi insomma c'è questo elemento unificante che è un po' come ai giorni nostri, non so, che nei giochi di Ubisoft convivono quelli di L'Abstergo con quelli di, no? Di Watch Dogs, esatto. E questi qua infatti erano anche apparsi in altri due giochi, oltre a Loadrunner, che erano Choplifter, se vi ricordate, che era il giochino quello dell'elicottero che doveva portare in salvo i vari pupi. Sì, fighissimo, mi piaceva da morire quel, esatto, gioco. E poi un altro che era una specie di mezzo strategico, che era Raid on Bungling Bay. Questo un po' più sconosciuto, come oscuro come gioco, però sempre prodotto dalla Brandenburg, che si autocitava da Brotherbund, sì, che significa tipo banda fratelli in italiano, chi può dirlo? Brotherbund. Brotherbund. Ah no, Bund non lo so. Bund. Ricordiamo che comunque Brotherbund ai tempi era un signore publisher, tant'è che infatti fu anche quello che sdoganò, che pubblicò e sdoganò anche il famoso Prince of Persia di Mechner, no? Sì, comunque se vai a vedere proprio il modo in cui venivano costruiti, progettati, anche disegnati i giochi, era veramente un'altra era, cioè proprio per me non c'è, cioè, parlando del videogioco di allora e parlando del videogioco di oggi non stiamo parlando della stessa cosa, cioè proprio sei un media completamente diverso. Va bene, allora a questo punto facciamo una piccola pausa, giustamente, e come da tradizione l'ennesima importante rubrica di questo nuovo corso di archeologia videoludica, che insomma ci teniamo perché sta diventando il fiore all'occhiello della nostra trasmissione, applaudatissima e super, super richiesta, è ritornata la retro rassegna stampa. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Morgan e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra retrorassegna stampa dedicata questa volta a Loadrunner, icona del gameplay e originalissimo titolo nato dalla mente di Douglas Smith, purtroppo recentemente scomparso. Iniziamo con le riviste italiane e precisamente con Computer Games della Peruzzo Editore, la rivista che si definisce il mensile per programmare il tuo divertimento. Nel numero di aprile 83 troviamo una dettagliatissima guida strategica su due pagine, arricchita dal piacevole grafico artistico che rappresenta una schermata del gioco. Tra i vari consigli leggiamo: per completare il livello 64 dovete lasciare la seconda piattaforma a sinistra, salire sulla testa della guardia che cade, scendere con lei e passare sulla piattaforma di destra al primo livello. Facile, no? Ad ottobre del 1984 usciva il numero 10 di Edgy Computer, che reca in copertina un busto di Mozart. ma sfogliando le pagine interne troviamo nel paginone centrale la prima recensione della rubrica Computer Gaming dedicata appunto a Loadrunner, che annuncia: carico di pericolo ed esaltazione, Loadrunner ha colpito nel segno. Ma la parte più appariscente dell'articolo è la stupenda immagine grafica che raffigura il protagonista del gioco come un'avvenente donna soldato che lascia crateri alle proprie spalle dove far cadere degli interdetti nemici. Vi consiglio, a tal proposito, di far riferimento alle note dell'episodio, dove potrete trovare, tra le scansioni complete di tutti gli articoli che citiamo, anche questa splendida opera artistica. Restiamo in Italia ed estraiamo dal nostro archivio il numero 4 della rivista Club Nintendo, rivista che, ricordiamo, veniva spedita gratuitamente a tutti coloro che registravano un prodotto Nintendo negli anni 90. A pagina 20 un trafiletto annunciando la versione in uscita per Nintendo NES dal titolo Hyper Loadrunner vi invita a provarlo dicendo: tirati sulle maniche e preparati per l'avventura più importante della tua vita. Dovrai entrare nel labirinto maledetto, tra parentesi Doom Labyrinth, per ritrovare l'oro rubato alla tua gente dal malefico signore rosso del male. A gennaio del 1999 esce, come si autodefinisce, la rivista per Nintendo che mancava, ovvero N64 Magazine. Ovviamente con in copertina un canonico Zelda. Al suo interno una preview che informa sulla disponibilità per la primavera del 1999 di Loadrunner versione 64. E leggiamo: la software house Big Bang di Seattle sta lavorando sodo per far risorgere un cimelio della storia dei videogiochi. Loadrunner 64 porta gli elementi del vecchio gioco in una nuova splendida grafica in 3D. Passiamo in rigoroso ordine cronologico alla stampa estera, precisamente a quella inglese, con CVG di aprile dell'83, che a pagina 105, tra una review di Black Tiger e una di Airwolf, recensisce Loadrunner come il titolo che Software Project, la software house che vi ha portato Manic Miner, il classico platform inglese, oggi vi presenta ciò che diverrà un nuovo classico ma americano, cioè Loadrunner. Leggendo ancora più in basso, ignorate la grafica, giocatelo e basta. Loadrunner si guadagnerà la reputazione di gioco di qualità e la versione Spectrum non farà eccezione. Voto 8 per globale e giocabilità. Facciamo un'eccezione parlando questa volta di una coloratissima pubblicità apparsa sull'americana Electronic Games di dicembre 83, in cui la Brother Bound Software, sottotitolo Scopri la differenza, definisce il titolo come 150 livelli di gioco che vi metteranno in subbuglio il cervello, senza fine alla tensione, alla scoperta e alla sfida. Beh, il gioco è bello, quindi almeno stavolta non è solo potere del marketing. A febbraio 1994 il giornale americano Enter Magazine, nell'articolo intitolato Il meglio dei giochi per computer del 1983, pone Loadrunner al secondo posto nella classifica dei migliori giochi con editor. Al primo posto c'è Pinball Construction Set e al terzo Maze Craze Construction Kit. Critica il nostro gioco come un titolo con 150 quadri molto simili l'uno dall'altro, ma per il quale il solo editor di livelli vale tutto il prezzo del gioco. Molto semplice da utilizzare e decisamente più amichevole di quello di Pinball Construction Set. Parlando dello Spectrum, Popular Computer Weekly di novembre 84 afferma che Loadrunner è il primo gioco creato per essere hackerato. Anzi, la Software Project vi incoraggia a smontare completamente il gioco e a creare le vostre strutture e piattaforme. E conclude: senza il suo editor di livelli, questo gioco sarebbe solo una noiosa versione di Apple Panic. Sempre in dominio Sinclair, la britannica Crash, nel numero di dicembre del 1985, specificando che il gioco è tutto scritto in linguaggio macchina, puntualizza che, dato il numero enorme di livelli, essi sono divisi tra i due lati della cassetta, ovvero 75 per lato, ma è possibile giocare ad ognuno senza dover aver completato il gioco. Al finale, come per i pennelli cinghiale, ci lascia con la massima: Loadrunner è la prova che non serve una super grafica per fare un grande gioco, ma solo una grande idea. Electronic Games di gennaio 85, la fonte numero uno del software di divertimento per il tuo computer, ci parla della versione Championship di Loadrunner, ponendo l'attenzione sul grande adesivo rosso e bianco che campeggia sulla scatola e che ammonisce: gioco adatto ai soli giocatori esperti di Loadrunner. Leggendo l'articolo apprendiamo che Doug Smith, il creatore del gioco originale, stavolta non è più solo, ma si è circondato di 10 creativi con cui ha realizzato 50 nuovi livelli molto più difficili. Difficili a tal punto che per risolverne ognuno saranno necessarie 2 settimane. E sentenzia: la versione migliore, secondo me, è quella Apple II. Sfogliamo adesso Your Computer, la rivista per Spectrum, che nel gennaio 85, con un voto di 3 stelle su 5, afferma: il titolo della casa che ci ha dato Choplifter è una nuova pietra di paragone per il genere di giochi con editor. Nel numero dell'inverno dell'85, il periodico dedicato ad Atari, Atari Explorer, esamina in un articolo congiunto le versioni Rescue e Championship di Loadrunner, stupendosi dell'aspetto tridimensionale conferito alla prima da Synapse Software, sussidiaria della Brotherbound. Tra l'altro leggiamo: come recita il manuale, ci sono alcuni tra i livelli più intricati e difficili da superare, ma superato il 50° riceverete una password da spedire alla casa produttrice per ricevere a domicilio un certificato che vi attesta campioni di Loadrunner. Un manuale di consigli, poi, è disponibile a parte per il prezzo di $9.90. Un minuscolo trafiletto tra gli sconosciuti Zani Kong, Fahrenheit 3000 e B-Bull è dedicato a Loadrunner in un articolo che parla di giochi di scale e livelli. Ci riferiamo alla rivista Un Computer Weekly di gennaio 85, che apprezza la grafica di questo tradizionale gioco di scalata e scavo come la più graziosa mai vista. Pagella: istruzioni 65, giocabilità 100, grafica e rapporto prezzo-valore 90. Tra le pubblicazioni dell'epoca dedicate agli smanettoni troviamo le riviste Computist per i seri utilizzatori dell'Apple II e Hardcore Computist, edite entrambe dalla Softkey Publishing di Washington. Sfogliandole scopriamo 2 articoli molto tecnici, ricchi di listati e tabelle in codice macchina, con descritti vari approcci per modificare e sproteggere il gioco, nonché scavalcare quella che viene tacciata come l'infame protezione della traccia di boot del disco. Sinclair User di febbraio 95 laconicamente scrive: Loadrunner, l'ennesimo gioco dove occorre salire delle scale? Ti vedo già pronto a piangere e tirare il dischetto nel primo cestino della spazzatura che trovi. Eppure, se questo gioco entra nel tuo raggio d'azione, saprà premiare in modo speciale la tua perseveranza. Zap64, con una pagella di voti eterogenei che vanno da un 34% per il suono a un 94% per rigiocabilità, giudica letteralmente: Loadrunner è il primo gioco che farà uscire gli occhi dalle orbite ai vecchi titoli per piattaforme. 150 livelli di vero carburante per farti restare acceso a giocare tutta la notte, fino all'ora in cui i gufi volano a dormire. L'originale AOI, americana rivista costola di Computer User, nell'aprile del 1986, in un articolo dal titolo Think Fast, che prende in rassegna vari giochi per Commodore 64 che impegnano la mente ed i riflessi, esalta i seguiti del gioco, rispetto al primo titolo, perché disseminati di consigli e messaggi nascosti tra i vari livelli. Bene, prima di salutarci vi consiglio di reperire il numero 111 della rivista Retro Gaming, che riporta uno speciale dietro le quinte della creazione del gioco. E vi invito ancora a far riferimento alle note dell'episodio, che contengono le scansioni di tutte le pagine citate, nonché un'appassionante intervista a Douglas Smith, dove, tra le varie risposte, in merito alle origini della creazione di Loadrunner, racconta: il gioco originale Loadrunner è nato nell'estate dell'82. In quel periodo ero studente presso l'Università di Washington e avevo un lavoro part-time presso il campus. Ero consulente presso il centro di calcolo e aiutavo gli studenti a preparare gli statini e a fare altre cose. Ma in estate c'erano pochi studenti e quindi stavo seduto ad una scrivania con nulla da fare e con la disponibilità di un computer. Quindi per occupare quel tempo per cui io ero pagato a non fare nulla, decisi di contattare un mio amico e iniziammo a scrivere il gioco. Lo programmammo in Pascal su un mainframe VAX 11780. Dopo un po' il gioco era quasi completo. Ma un giorno mio nipote, Nathan Williams, mi chiese se potevo mettere il gioco su un disco per Apple II per farlo giocare a casa. Accettai la sfida e provai a convertire il codice per VAX verso Apple II. Purtroppo dopo molti tentativi non riuscii a farlo e questa cosa mi infastidiva molto, così che in un fine settimana ho riscritto completamente il gioco per Apple II. Fondamentalmente l'ho fatto in 3 giorni. Era una specie di versione grezza a media risoluzione in bianco e nero e senza joystick, ma era una versione funzionante di Loadrunner, più o meno la versione che è oggi. Bene, su queste parole del compianto Douglas Smith, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto dandovi appuntamento alla prossima retrorassegna stampa videoludica e un bel saluto da Morgan. Perfetto, ringraziamo Morgan veramente sia per l'idea geniale e quindi oramai da questo episodio in poi diventerà appunto cardine di questa quinta stagione, tanto quanto ovviamente anche l'intervento introduttivo di Luigi Marrone, che avete già sentito negli ultimi episodi della quarta stagione in via del tutto sperimentale. Pare insomma la cosa sia piaciuta e quindi ce la teniamo qui. Allora, potremmo addirittura fare solo quello, sì, potremmo fare l'introduzione, la scheda di Bertoni, poi mettiamo la retrorassegna e ciao. E noi stiamo qui e ci grattiamo la pancia. Poi potremmo fare dei video solo di retrorassegna, per esempio. Chissà, siamo pubblico, stiamo parlando insieme a voi, rispondeteci, dateci suggerimenti, diteci quello che pensate, quello che vi viene in mente, ma adesso a questo punto parliamo. Mandatecelo anche in qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo su anche Facebook, con l'X, anche con la anche con Onvalia, insomma. Esatto. Allora, Giuseppe, parliamo del gameplay, anche se poi in realtà, insomma, ne abbiamo già abbastanza parlato. Ne posso parlare io? Ecco, diciamo, vediamo un attimo, sentiamo Marco che cosa ci allora, strizza. Io vado a memoria, perché l'abbiamo visto adesso lui, in video, lui è uno studiatore. Io tu invece sei un cialtrone. Io ricordo della mia memoria. Innanzitutto nel video... ricordare la memoria dell'altro è difficile, però è impossibile, insomma. Nel video che abbiamo visto, in realtà, faccio una piccola parentesi, vediamo... mostrata proprio la versione dell'Atari 800XL, che però non era quella. Ah no? Attenzione, c'è un errore, allora c'è un colpo di scemo, perché era simile ma era comunque graficamente diversa. Io avevo una cartuccia che era in realtà era compatibile tra 800XL e mi sembra, adesso non mi ricordo se XE, non mi ricordo se anche quello era 800 o un'altra sigla, non mi ricordo. Comunque erano due computer Atari compatibili e questa cartuccia era compatibile per entrambe, quindi non so se era diciamo un errore del video o semplicemente questo tipo di gioco, essendo adatto per due piattaforme, era comunque diverso, quindi un'altra versione ancora che non era nel video. Il gameplay del gioco era molto semplice. C'era il protagonista, questo spricchietto maleodorante, che stava lì messo in queste mappe bidimensionali e che doveva raccogliere, come ha detto il buon Giuseppe, questi amennicoli d'oro sparsi per il livello, per la miniera, no, perché fondamentalmente appunto l'Ode era questa specie di miniera col filone d'oro, no? Diciamo però scusa Marco, sì, interrompo dicendo che ufficialmente la versione più brutta da vedere è quella del Super Nintendo, cioè, sì, è veramente la cosa meno simile al gioco originale, cioè vedi, io penso che vale, sia la versione quella del Famicom, quella che ho detto io col personaggio, no, Super Nintendo, col furry, esatto, quella col furry blu, quella della foresta, esatto, sì, non c'è le bolle, che schifo. Vabbè, insomma, c'è questo personaggio che deve andare a recuperare questi minicoli d'oro sparsi per la miniera o questi costrutti strani, armato appunto di pistola sparabuchi, e fin qui potrebbe anche essere abbastanza semplice. Le varie sezioni della miniera sono collegate da scale che sono messe in verticale, come è normale che siano, ma anche in orizzontale, perché non sono delle funi quelle appese al soffitto, ma sono scale messe in orizzontale. Tant'è infatti che se ci fate caso, l'animazione del pupazzetto è proprio quella di un tipo che allunga le mani da un piolo all'altro della scala e si muove. C'è anche sulla copertina questa cosa qui. Che sì, cosa fa poi, il pupazzetto? Nelle versioni anche più avanzate, con grafica più ci sta di tutto, ammodernata, no, proprio si vede proprio dall'animazione, si intuisce che è proprio, esatto, quella del tizio che prende i pioli. Che cosa succede quando prende questi pezzettini d'oro o qualunque cosa sia, no? Che dopo averli presi tutti quanti si va a materializzare una scala che ti permette di arrivare al livello successivo. I nemici sono questi Bungling Guards, che sono questi androidi, esseri sintetici che vanno in giro per il livello cercando di inchiappettarti e ti fanno anche gli scherzetti. Perché ti rubano i pezzetti d'oro. La battuta comica, io da piccolo sai cosa dicevo che erano? Perché se li guardate c'hanno diciamo il pantalone bianco e sì, sopra, che sembrano degli Alibaba i 40 ladroni. No, a me ricordavo la versione tipo malvagia dei puffi, visto che erano viola. Sono i buffi cattivi. I buffi cattivi. Infatti la mia versione era in tonalità di viola. E questi tizi che ti fanno anche gli scherzetti, che ti prendono praticamente i pezzetti d'oro, se li mettono in saccoccia, e come già spiegato Giuseppe, dovevi farli cadere nelle buche per recuperarli, potevano essere, oltre che i tuoi peggiori nemici, anche i tuoi migliori alleati. Perché? Perché c'erano alcune parti della mappa che non erano raggiungibili dal tuo personaggio, ma erano ahimè raggiungibili soltanto dalle guardie che quando si rigeneravano dopo che erano uccise, scendendoci andavano a percorrere queste o anche segmenti. O anche il fatto che praticamente, per come erano dislocati nella disposizione iniziale, no, del livello, queste valigette, no, di che appunto erano fatte in maniera tale che comunque si trovavano in una sezione che se tu ci arrivavi materialmente, magari cadendoci eccetera, poi tu non potevi uscirne. Esatto, non ne potevi più venire, quindi diciamo tutto si giocava anche sul costringere, sul fare arrivare là un nemico per raccattarlo, no? Sì, ma c'erano proprio dei livelli in cui non era possibile arrivare ed erano messi questi pezzi d'oro su piattaforme sotto il punto di rigenerazione, erano fatte apposta, quindi dovevi proprio stare lì, perdere tempo a ucciderli senza morire e farli portare giù tutti i pezzi. C'erano alcuni livelli dove erano presenti dei passaggi segreti, tra virgolette, cioè tu praticamente stavi andando per i tuoi fatti e a un certo punto precipitavi nel vuoto e passando attraverso il pavimento che sembrava solido, ma in realtà non lo era. E c'erano dei puzzle in cui eri costretto a far cadere, appunto come diceva Giuseppe, le guardie in alcuni punti per utilizzarli come passerella o per bloccarli del tutto, quindi toglierti dalle balle tutti i nemici e giocarti il livello in tranquillità, diciamo così. Senza dire che poi nei livelli più avanzati non tutte le piattaforme erano distruttibili, perché c'erano pure le piattaforme, quelle diciamo che hanno la tinta unica colorata, la solida, esatto che invece erano indistruttibili, non potevi fare niente, esatto, e quelli lì erano dei posti brutti dove trovarsi quando avevi due guardie ai tuoi lati, quindi non potevi fare. La cosa più simpatica era che dovevi, quasi in tutti i livelli, ma in alcuni nello specifico, andarti a fare il calcolo esatto delle righe da abbattere per raggiungere determinati pezzi d'oro che erano dentro degli enormi ammassi di pietra. Sì. Quindi devi scavare il numero esatto di buche per arrivare all'oro, ma non solo, passare anche di sotto, quindi riuscire a sfuggire anche alla rigenerazione delle pietre, perché sennò alla fine morivi lì dentro. Cioè non solo dovevi calcolarti la cosa a monte, ma dovevi essere veloce anche nell'esecuzione, no? Il trucco era contare le righe e aggiungerci un pezzo. Quindi se erano 5 righe dovevi fare 6 buchi per arrivare ovviamente calcolando che dovevi arrivare con l'ultimo buco col vuoto sotto, perché c'erano delle sezioni in cui magari c'erano 5 strati sotto di te, in altre ce n'erano 6, quindi devi calcolare esattamente, definire il punto giusto. Era un gioco molto simpatico. Io mi ricordo tra l'altro che con l'editor mi divertivo a fare alcuni livelli. In realtà dovevano essere molto semplici, non perché fossi incapace io come in realtà lo ero, ma perché quel gioco permetteva il salvataggio solo tramite floppy e io avevo il registratore, per cui non l'avrei mai potuto registrare. Se avessi fatto il livello più bello dell'universo, comunque non l'avrei mai potuto salvare, per cui mi divertivo magari a fare il 151esimo livello copiando, perché potevi anche copiare dei livelli, sì, e modificarli, e magari modificavo qualche cosa, facevo dei livelli semplici, mi divertivo a fare dei piccoli puzzle, che magari c'erano 3 piattaforme ma con l'oro tutto sopra e dovevi far cadere le guardie sopra per farti riportare giù, cose molto semplici. E spesso, infatti, come ha detto anche Giuseppe, il divertimento era proprio magari in alcuni casi farsi dei livellini così di tanto per vedere più che altro come funzionava. Ho un buon ricordo di quel gioco, tutto sommato, dai. Possiamo anche dire che me lo ricordo abbastanza bene. Ne ho giocata tanta di monnezza, ma questa, diciamo, non lo è davvero. No, assolutamente no. Io poi mi ricordo che ebbi il periodo in cui non potevo materialmente più giocare all'Odran, perché se vi ricordate, già dal 486 in poi, se lanciavi quello la versione DOS, insomma, era troppo veloce, a meno che non usavi, se vi ricordate, quei programmini che ti rallentavano il processore. Sì, c'erano, vabbè, il programmino che rallenta il, sì, processore in assoluto era, sì, Windows, per cui sì, lanciando, no, Windows, quello poi uscì anche la versione per Windows, vi ricordate, quella del 1999, però funzionava perfettamente perché si rallentava, sì, da sola. Sì, e poi era comunque era abbastanza simile a quella per PlayStation, poi. Sì, però quella per Xbox era XBLA, era decisamente meglio. Quello che ricordo sempre, ricordi bruttissimi di quella per Windows, che era, diciamo, veramente brutta, anche era forse una delle poche versioni che non aveva neanche effetti proprio sonori, per quanto, diciamo, tutto sto gioco che tu andavi a fare sin dalle prime iterazioni di Loadrunner aveva solo gli effetti, diciamo, gli effetti sonori, non c'era neanche la musichetta. Esatto, no, alla fine tutte. Livello, ah sì sì, c'era il classico jingle di quando però superavi, diversi, il livello, erano diversi jingle, sì, c'era uno simile anche a quello di Brass, però mentre giocavi era, diciamo, muto il gioco, tranne per, appunto, quando distruggevi un blocco, esatto, o quando prendevi una cosa, sì. Benissimo, allora, curiosità invece, qualche curiosità, tipo, che ne so, i record o qualche long run, insomma, del gioco, ci abbiamo, perché ho visto, insomma, che il nostro editore, autore Bertoni ce l'ha messo in scaletta, ora non so poi dopo se ce lo siamo cagato, insomma. No, ma io pensavo che fosse una cosa soltanto da Git Sengoku, lo dici? Ma che non ho fatto. Che non hai fatto, perché chiaramente Marco, insomma, questi giorni era in sciopero. Sono in sciopero con me stesso. Seguiti il remake, mi pare che ne abbiamo parlato, insomma. Ah, abbondantemente, se, diciamo, tuttora, che... se volete, c'è la versione per cellulari, che ha anche diverse modalità di, non so se l'avete provata, di controllo, perché oltre, diciamo, a quello standard touch, cioè col joypad, la croce digitale, c'è anche tipo quelli strisciamento, eccetera, però comunque secondo me senza un controllo fisico, un controller fisico, è sempre complicato Loadrunner. Poi ho detto, la cosa particolare fu, appunto, tutti questi livelli di quella compilation, più tutti quelli che non vedremo mai, magari perché chi li ha creati non ha più il floppy con sé, perché immagina tutto il patrimonio di tutte le persone del mondo dall'83 a oggi. Quanti livelli avremmo voluto giocare. Esatto, è, no, che certo, non, certo che se Marco ci avesse avuto voglia di fare il Kit Sen Google, per esempio, le versioni brutte, tipo quella in 3D, quella in isometrico, roba del genere, cioè, per esempio, te li potevi anche giocare, insomma, sarebbe stato. No. Se li troviamo, però, le mettiamo come link sull'episodio. Sì, sì, cioè, ci stanno, sì, su ci YouTube, sta. Ci stanno anche quelle per Nintendo 64. Comunque ve lo sconsiglio. Addirittura, beh, cioè, appunto, questa qua per Nintendo 64, oltre ad avere anche quella per PlayStation 2, oltre, cioè, cambia radicalmente. Oltre ad esserci la parte, appunto, di tutti questi trasportatori, tutte queste piattaforme piattaforma in 3D, c'è pure tipo anche in mezzo tipo i boss intermedi durante i livelli. Cioè, livello, no. Cioè, oh. il è un gioco che ma Smith, esatto, non gli ha mai fatto caso a nessuno, sta gente. Ma gli davano i soldi. Vabbè. Che gli frega. E vabbè, appunto, quello campava sulle royalty del gioco. Medicine, tutte medicine. Ne sono bastate, però. Sono bastate. Vabbè, non scherziamo su queste cose, è veramente un po' triste anche, un pochetto, anzi. Concludiamo insomma qui magari questa parte, questo speciale possiamo chiamarlo anche dedicato al buon Douglas Smith e soprattutto a Lode Runner, che è un gioco, ecco, come abbiamo detto, che ha attraversato tre decenni di storia del videogioco, ma attraversandoli veramente a cavalcioni, diciamo così, a cavallo proprio di ogni macchina possibile e immaginabile, nelle varie conversioni, nei vari porting e addirittura nelle varie anche reinterpretazioni. Chissà se faranno una versione con l'Oculus Rift. Tipo, tra l'altro ormai fanno di tutto quanto. Potrebbe essere un'idea, ma lanciamo una campagna Kickstarter. Ma io farei più Pitfall con l'Oculus Rift. Pitfall, esatto. E a questo punto, dato che il kit Sen Google purtroppo non ci sta, ma non perché non ci starà in questa quinta stagione, ci sarà in questa quinta stagione, sì. Ci viene quasi la voglia di levarla, insomma. Ma perché? Che non la fai, è una puntata sola, ho buttato su. Comunque, vabbè, allora a questo punto ce ne andiamo tutti zitti, buoni, cheti, su quel bar, su Mele High. Io c'ho sete, namo. Mi fai lanciare le cose? Lancia! Dai, lancialo tu, dai. No, ma lancialo tu. No, dai, lancia. E allora andiamo al bar. Dai. Eccoci, tornati dal jingle. È bello il jingle, vero? No, è bello. Ci cattiamo anche Aila. Più o meno fa così. È uguale, è la stessa cosa. Allora, ci hanno mandato alcuni messaggi minatori, però noi non li leggeremo perché non crediamo nel terrorismo. Quindi andiamo a leggere le più belle affermazioni che ci sono arrivate tramite mail, no, blog. No, dal sito di Archeologia. Dal sito di Archeologia. C'è stato un solo commento all'episodio scorso, talmente sfrontato. In realtà ci sono stati molti commenti sulla pagina, però non si sa perché il post della pagina, della pubblicazione di Defender of the Crown, è sparito. Da dove? Dalla pagina. Ho cercato tutto oggi, bestemmiando chiaramente. Qui sono riuscito a trovare solo un commento dalla pagina, che era il commento sull'immagine di copertina che avevamo cambiato. Perché il post proprio dell'episodio è sparito. Questo è perché voi con le manacce No, in realtà è la Cinemaware che ha ascoltato l'episodio e ha contattato il provider, no? Beh, insomma, dovrebbero essere lusingate, abbiamo fatto un puntatone, diciamo. Vabbè, allora dai Marco. Comunque, no, questa è una comunicazione di servizio, se vuoi la leggo, ma... No, leggila perché così diamo anche risposta. C'è il signor Anonimo. Anonimo, sì, un signor Anonimo. Comunque ti devo lì. Dice, ciao, mi sembra che questo episodio non sia stato inserito nel feed RSS. Grazie per le ore di interessante compagnia. È vero, nei primi giorni non era presente nel feed, ma il feed, così come abbiamo detto anche su Dietrologia Videoludica nella puntata che è uscita ieri. O che uscirà domani? No, è uscita ieri. Uscita ieri. Diretta a me che è uscita ieri. Va bene. Che è uscita ieri. In realtà abbiamo ripreso possesso totalmente dei feed e adesso nei feed trovate tutti gli episodi, soprattutto su Dietrologia Videoludica, ma anche su Archeologia Videoludica. Se trovate difficoltà su iTunes, basta semplicemente cancellare tutti gli episodi e fare rielenca tutti gli episodi, lui ti rielenca tutti gli episodi nel nuovo ordine, quello che poi in realtà è l'ordine corretto. Se avete ancora problemi, disabbonatevi e riabbonatevi, insomma, vedrete che non avrete più nessun tipo di problema. Quindi vi ringraziamo, insomma, dell'indicazione, ma lo sapevamo, cioè abbiamo avuto problemi, infatti pure su DVL c'era uno che continuava a scrivere ma quando la mettete? La mettiamo, ma ancora non l'avete messa, la mettiamo. Vabbè. Ma ci vuole tutto questo tempo, sei pure incazzato. Vabbè Simone, ma ti ricordi che era capitato pure in un paio di occasioni anche con l'occhio, che c'era quello che diceva non vedo la nuova puntata nel feed, ti non ricordi? C'è. Poi, c'è. No, in realtà il problema era lui che non la vedeva, perché la puntata l'occhio non c'ha mai avuto problemi tecnici, insomma, e se ce l'hai avuti nessuno lo saprà. Andiamo. Allora, dall'episodio del Nobel inglese, e quello lo posso dire il nome perché non mi sembra, posso? Poi. Dio Max si chiama così? Non lo so. Comunque ha detto veramente una puntata toccante. Peccato per i pizzi. Perché ricordiamo che era successo. È che avevamo registrato in tre, io, Paganini e Santilio, però la mia traccia è sparita. Come nel posto. Quindi ho dovuto fare un collage che voi neanche vi immaginate. Era la puntata col pizzi in post produzione. No, il pizzi non c'era proprio, ho dovuto fare un collage proprio. Beh, pazzesco per far finta che loro parlavano fra di loro senza di me. Un po' come nel film Il Corvo, ti sei inserito con effetti speciali. Anche il film quello di Alberto Sordi. Quello che dice bello, che hai fatto col computer? Che hai fatto col computer? Ma ragazzo. Andrea, il nostro caro Andrea, non so quale Andrea. Non so, un Andrea. Un Andrea ha detto: ascoltate adesso, molto interessante e ricca di contenuti. Sì. Peccato veramente per il pizzi. Ti sei grattato, sì, quando hai detto. Sì, qualche volta sì. Da Facebook, Massimo Borgo ci dice: bellissima puntata, penso sia anche riferita sempre la stessa. Mi avete fatto. No. Ma scusa, sì, no, questo è Defender of the Ground. Scusa, non l'ho fatto. Te l'avrei dovuto scrivere. No. Bellissima puntata, mi avete fatto venire voglia di giocare a Wings con mezzi più moderni. Peppe. Ecco. Poi com'è andato? Come sta andando il Kickstarter? Per l'ennesima volta, no, io ovviamente no, perché ho detto Wings tra quelli di Sanamaware è quello che mi ha sempre interessato di meno. In effetti anche io, cioè sono della tua, però pare che sia un gioco che abbia fatto faville, insomma, però. Sì. No, ma indubbiamente comunque era interessante, perché era, l'ho detto, uno dei pochi simulatori di volo con un a parte, vabbè, il discorso che era sempre anche un videogioco storico, no, perché era ambientato durante la seconda guerra mondiale, una delle tante guerre mondiali, esatto, era comunque diciamo appunto c'era un'intera parte di storia dietro che si andava via via dipanando con le varie missioni. No, ammetto che sono curioso di vedere il progetto nuovo, perché un gioco cioè con la logica anche così, quell'impostazione narrativo cinematografica che dava la Cinemaware, rapportata oggi con le tecnologie di oggi, insomma, sono curioso di vedere che cosa ne esce fuori. Però sai, io con i remake l'ho sempre espresso, insomma, a volte siete anche d'accordo, sono sempre coi piedi di piombo, perché secondo me un gioco è la storia e il periodo in cui è nato, no? Quindi esportarlo da quel contesto, secondo me poi rischi, insomma, di fare un'altra cosa che non c'entra assolutamente niente e che ne porta un po' magari la rappresentazione e un po' il nome, però vabbè, questo è, vediamo che ne esce fuori, insomma. In realtà, diciamo, dalla pagina attuale, aggiornamento, diciamo, di Kickstarter, l'ultimo, cioè il progetto risulta che ce l'ha fatta. Il 10 dicembre, però il 10 dicembre del 2013, quindi alla fine dell'anno scorso. Perché sono stati scappati quei soldi. Sono stati ottenuti $91,380 su 85,000 richiesti, quindi, però diciamo ancora credo che non sia stato consegnato niente ai backer, quindi credo che insomma vedremo quando uscirà o se scappano come i soldi, come ha detto Marco. Io diciamo ai Navy Baker, diciamo, se sentite quel bruciorino insomma in fondo alla vostra schiena, non sa, prendete con voi noi, perché insomma noi vi avvisiamo sempre, non si sa mai quello che succede e figurati con gli Early Access, di cui abbiamo parlato ieri nella puntata, esatto. Vai, allora continuiamo con la posta. C'è sempre da Facebook Andrea Muccio che dice: Comuccio, grandissimi, non mi sono perso nemmeno una puntata, non vedo l'ora. Di cosa? Non lo so, però non vedo l'ora. Non vedo l'ora, si vede che avevamo scritto che stavamo tornando. Probabile. Comunque, Fun 86, potrebbe anche essere Fun 86. Fanny. Stagione fantastica, 5 stelle. Complimenti, è appena finita un'altra grandissima stagione di archeologia videoludica. Davvero bravissimi. È sempre un piacere ascoltarvi. Beh, grazie. Non ringraziamo, una bella recensione. Ricordate, 10 Trologia Videoludica, ben 6 valutazioni a una stella. Questo di cui uno di uno un infamone che non ci ha capito niente, che non ha capito niente, questo chiaramente, però vabbè, sa, no, non ha capito, è inutile che rifacciamo della discorso nostra trasmissione, non ha capito niente dei criteri di valutazione, no, esatto, esatto. Attenzione, forse voleva votare 5 stelle, chi lo sa. Vabbè, detto questo, beh, inutile di fare il discorso dell'altro, no, anno, no? Cioè, ok, quindi ecco, siete finalmente entrati con noi gioiosamente in questa quinta stagione. Avevamo pensato che fosse indicato partire appunto con Lord Runner, poi da qui in poi ci saranno tante altre belle puntate. Come abbiamo già detto alla fine della scorsa stagione, quest'anno Archeologia Videoludica zompetterà, diciamo così, non seguirà un ordine strettamente cronologico come abbiamo provato a fare nelle prime 3 stagioni e a volte con risultati alterni. Infatti seguiremo una programmazione ad cazzo. Parleremo di FIFA 14 15 esatto, perché sta per uscire il nuovo FIFA, esatto, e quindi quello vecchio è retro gaming. No, vabbè, detto questo, insomma, questo è un po' il nuovo format, più ordine, più stringate le puntate, l'avete visto, l'avete sentito anche su Dietrologia Videoludica, più ciccia e meno chiacchiere, perché insomma è vero che probabilmente il rischio è che il programma o i programmi perdano un po' di anima, un po' di brio, insomma, con però pensiamo insomma che le puntate di 3 ore a un certo punto, c'è una certa età, a un certo punto basta anche per noi, perché diventa veramente impegnativo. www.archeologiavideoludica.it è il nostro sito. Archeologia Videoludica la trovate su Facebook e su Google Plus, e chiaramente anche su iTunes come podcast audio, e c'è anche il canale YouTube che, come abbiamo detto anche con l'amico Santilio, magari ci stiamo per inventare qualcosa, e c'è anche ovviamente Archeoludica, se non sbaglio, no, del Twitter, Lumaca chiocciola Videoludica. Ah no, è solo Videoludica, hai ragione, è solo Videoludica. Io ormai questo Twitter non so perché ce lo facciamo proprio veramente grossa fatica, perché Twitter non siamo. Scriveteci, commentate, soprattutto fate tanti anche recensioni su iTunes, che ci fanno piacere, ci fanno risalire, ma soprattutto insomma dateci feedback su come vedete questa nuova stagione, suggerite anche argomenti e insomma idee per quelle che possono essere le prossime puntate, anche se abbiamo un piano editoriale già abbastanza consolidato, ma non si sa mai, soprattutto per quello che potrebbe essere la puntata natalizia, che sapete che noi ogni anno siamo in crisi, che facciamo a Natale, qual è lo speciale natalizio. E quindi detto questo, io Giuseppe, io ce l'ho i giochi che abbiamo ricevuto a Natale. No, ormai non ricevi più i giochi i giochi che riceveremo a Natale, visto l'abbiamo che abbiamo già fatto prima. Che cosa giochiamo a Natale? Che cosa avremmo giocato a Natale se avessimo avuto 13 anni oggi? 13 anni oggi. Purtroppo la tombola l'hanno fatta da qualche altra parte. Esatto. Vabbè, ci inventeremo qualcosa. Allora, Giuseppe. Niente, io vi do sempre i miei riferimenti. Comunque potete trovare tutte le varie cose che faccio, solitamente le spammo sia su Facebook che su Twitter col mio account @beppesaso. Poi mi trovate appunto in tutti i podcast di videoludici di PN, anche sull'Occhio del Beholder, che dovrebbe, soprattutto sull'Occhio del Beholder, che dovrebbe insomma uscire qualche giorno dopo, penso, questa puntata qua di archeologia. E poi ovviamente anche gli articoli che ho cominciato anche a scrivere nelle pagine di Dietrologia, dove c'è anche là un po' di, diciamo, di nostalgia, di amarcord, di articoli con giochi amarcord, insomma. È vero, in effetti sì, quella... perché se noi scriviamo qualche cosa e non sappiamo dove buttarla, è Dietrologia. Esatto, esatto. Ma articolo. In realtà Giuseppe quell'articolo l'ha scritto appositamente. Esatto, ma lo ha pensato in generale. Tra l'altro poi dice che ne dici di questo? E invece è un bel tema, perché può aprire un altro filone di discorso su Dietrologia Videoludica, che ricordiamo è il sito che apre filoni di discussioni. E non li gira mai. E non ha mai chiuso. Insomma, è il nostro orgoglio. Io andrei in giro col petto. Facciamo le magliette, noi non concludiamo un cazzo, però lo facciamo con orgoglio, esatto. Questa è una cosa bellissima. Quindi Marco, io saluto tutti quanti, chi mi vuole cercare mi può cercare su Google Plus, intanto siamo in due, io e Shatner, quindi è molto semplice. Esatto. Are you a motherfucker? Non c'è più scritto su DQL, siamo molto tristi. E poi sono anche raggiungibile su Facebook volendo, se proprio volete, il distruggitore, cercate, ho un nome strano in inglese, lo potrete vedere, ma se proprio lo vedete e scoprirete che di mestiere fa l'incantatore di serpenti. Faccio l'incantatore di serpenti su... che può essere pure ambiguo. Attenzione. Su Google Plus ci sono un po' di fotogallery che tra l'altro verranno piano piano immesse anche... Ma questa è roba di dietrologia videoludica, dovevi dirlo ieri sera. Lo so, dico anche qui. C'è anche roba dietro ludica. Ah, pure dietro ludica. Esatto, che verranno inserite appunto in dietrologia videoludica con dei mini articoli, proprio delle fesserie, tanto per ricordare il singolo gioco e basta. Il singolo gioco. Va benissimo. Ok, ragazzi, grazie di essere ovviamente intervenuti. Ci vediamo alle prossime puntate, che saranno più o meno insomma mensili, ma probabilmente anche qualcosa un po' più vicino, nel senso che se riusciamo a mantenere il ritmo che abbiamo avuto nel finale di stagione dell'altro anno, insomma, probabilmente riusciremo a fare anche 13, 14 o 15 puntate questa settimana. A settimana, certo, è chiaro, perché ne facciamo due puntate al giorno. Detto questo, grazie per averci ascoltato, sempre feedback, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.